tiro e passo tu a set. Beckenbauer, rapper power, scrivo barre leggendarie. La tua situazione fra non può che peggiorare, come un viaggio di 8 ore dentro un regionale. Ti spiego come si rapa, mi chiedi dove si scappa. Senti odore di napalm, il mio flow sono un paio di Nike nuove di paga. Il tuo zio Robert di Kappa, mio editore sulla base. Se il mio rap si potesse fumare sarebbe un trifase coi raggi laser. I miei bro la fanno nei box, fumano fino a tremare più di Michael J. Fox. Scendo ubriaco come Juli Castellanza, la striscia con la tua Mastercard su un canale ad Amsterdam. Tu mi ricordi quando si è messo a fare il rap Catalan? Fai una strofa e non riesci a recatela. Puntiamo alla preda con i nervi tesi, merda da un altro pianeta fra Kevin Spacey. Pioggia di colpi che lascia corpi stesi, gambe rotte, candelotti, morti, smokinesi. Una bomba in mano, nell'altra una bomba a mano, kamikaze del rap italiano. Pioggia di colpi che lascia corpi stesi, gambe rotte, candelotti, morti, smokinesi. Rap e sono cazzi, salti come i pazzi, doppia M, mamma mia. Sugli scarsi valanga di sassi dal cavalcavia. La tua tipa arriva, il mio tour manager la manda via. Non capiamo nemmeno il suo genere, Amanda Lia. Foto la tua vita anche distrutto tipo Iggy Pop, con una strafica anche se brutto tipo Billy Bob. Tu un bel ragazzetto, vendi come Liga, spanchi il pop. Ma sei tu che c'è il cazzetto, lei mica ti fa di pro. Capo metrico, in testa c'è un cavo elettrico. Rap e ti cavo i denti finché diventi apoplettico. Stronzo, sto primo posto, tu al bronzo. Belle quelle scarpe di merda del tuo sponsor. Non mi sfidi perché fottere con M è tosta. Lascio brividi e polvere bro, pelle e ossa. Rap letale, bomba cluster sulla gente vostra. Frate in generale caster contro il pelle rossa. Puntiamo alla preda con i nervi tesi, merda da un altro pianeta fra Kevin Spacey. Pioggia di colpi che lascia colpi stessi, gambe rotte, candelotti, morti, smokinesi. Una bomba in mano, nell'altra una bomba a mano, kamikaze del rap italiano. Pioggia di colpi che lascia colpi stessi, gambe rotte, candelotti, morti, smokinesi.